conti fatti. La storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Lo scorso 28 ottobre l'asta dei bot a 6 mesi, uno degli strumenti, come sappiamo, di risparmio più diffusi, ha fatto registrare per la prima volta un rendimento negativo. Cosa vuol dire? In poche parole, i risparmiatori ricevono in cambio un rendimento pari a zero, anzi sotto zero. Una buona notizia per le casse dello Stato, che spende di meno in interessi sul debito, non è una buona notizia per i risparmiatori. È cambiato tutto da quando, negli anni 70 e 80 del secolo scorso, il Tesoro era costretto a offrire rendimenti ben più consistenti per far fronte all'impennata del disavanzo e del debito pubblico. Proprio in quegli anni si celebrò un divorzio non molto conosciuto dal grande pubblico, ma non meno importante per la vita di tutti noi. È il divorzio del luglio del 1981 tra Tesoro e Banca d'Italia. Un divorzio che viene celebrato sotto la regia di Beniamino Andreatta, ministro del Tesoro, e di Carlo Azeglio Ciampi, governatore della Banca d'Italia. In sostanza, si decise che la Banca d'Italia non sarebbe più stata obbligata ad acquistare i titoli del Tesoro non collocati sul mercato. Così lo stesso Andreatta rievocò le ragioni che indussero a quella svolta. L'imperativo era di cambiare il regime della politica economica e lo dovevo fare in una compagine ministeriale in cui non avevo alleati, ma colleghi ossessionati dall'ideologia della crescita a ogni costo, sostenuta da bassi tassi di interesse reali e da un cambio debole. Il 12 febbraio 1981 scrissi la lettera che avrebbe portato, nel luglio dello stesso anno, al divorzio. Il termine intendeva sottolineare una discontinuità, un mutamento appunto di regime della politica economica. Un'analoga operazione che negli Stati Uniti pose termine nel 1951 alla politica di denaro facile che aveva permesso il finanziamento della Seconda Guerra Mondiale veniva ricordata come l'agreement fra Tesoro e Fed. Nei limiti stretti delle mie competenze era invece mia intenzione sottolineare la novità, la rottura col passato, quando poteva apparire sedizioso un comportamento della banca che rifiutasse il finanziamento del fabbisogno pubblico per non creare base monetaria in eccesso. Così il presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, governatore, lo ricordavamo, della Banca d'Italia negli anni del cosiddetto divorzio, rievocò nel corso di un convegno il 13 febbraio del 2008 la figura di Andreatta e le ragioni che determinarono quella decisione. Agli inizi degli anni Ottanta, la creazione di moneta avveniva prevalentemente attraverso il canale Tesoro. Gli interventi della Banca d'Italia erano volti essenzialmente a cercare di assorbire gli eccessi di liquidità in tal modo creati. Dal 1976 la Banca d'Italia era divenuta acquirente residuale di tutti i bot emessi dal Tesoro al tasso di interesse deciso dallo stesso Tesoro e rimasti invenduti all'emissione. Ciò avveniva, come precisò Paolo Baffi, governatore, nelle considerazioni finali di quell'anno, non, cito, in forza di un obbligo di legge, ma perché l'istituto di emissione aveva creduto di accettare la validità di una ragione economica e storica più cogente della pur profonda convinzione di quanto sia effimero e dispersivo il sostegno dell'occupazione e del reddito affidato all'inflazione. Ci aiuta a capire tutto ciò, a rievocare questo momento molto importante della storia economica del nostro paese, uno dei massimi esperti di economia monetaria, il professor Giacomo Vaciago, che è docente appunto di economia monetaria all'Università Cattolica di Milano. Buonasera professore. Buonasera a tutti. Allora, il divorzio, ecco, cosa rappresentò il divorzio, professore? Beh, rese indipendenti l'uno dall'altro e quindi autonomamente responsabili della propria condotta sia il Tesoro, il governo, sia la Banca Centrale. In un certo senso saremmo dovuti arrivare negli anni successivi alla stessa scelta, che è a ragione imposta dal Trattato di Maastricht. La Banca Centrale non è più la lunga mano del governo. Negli anni precedenti il divorzio, e quindi per buona parte degli anni 70, la Banca Centrale era stato il modo, la Banca d'Italia, era stato il modo con il quale si era finanziata l'inflazione. La Banca Centrale era infatti impegnata a collocare totalmente, a garantire il collocamento integrale dei titoli a breve, i BOT, e quindi non aveva un suo strumento di politica monetaria, non era una banca centrale nel senso pieno della parola, diremmo oggi, era la lunga mano del tesoro sui mercati. Certo, stiamo parlando di... della storia era così che era nata la Banca d'Italia, sì. E che quindi questa funzione di mano armata del governo riflettesse una passata vicenda storica e fuori discussione. Quindi fu una scelta obbligata in qualche modo? Beh, fu una scelta di politica monetaria, non decisa con legge, non decisa dal Parlamento. Qualcuno criticò nell'81 il fatto che anche il divorzio non fosse stato deciso dal Parlamento, cioè la lettera, lo scambio di lettere, perché di fatto questo avvenne, ci fu uno scambio di lettere fra due personaggi di grande rilievo, dotati ciascuno della stima reciproca dell'altro, che erano appunto Nino Andreatta, di via 20 settembre, ministro del tesoro, e Carlo Azeglio Ciampi di via Nazionale, cioè governatore della Banca d'Italia. Andreatta manda una lettera a Ciampi che gli risponde con una lettera. Le due lettere furono poi pubblicate, ma è un modo un po' anomalo nella storia del paese. Certo. Due personaggi si decidono scambiandosi lettere. Sì. Nei paesi normali è il Parlamento che fa queste cose, sia nell'uno che nell'altro caso, ma noi abbiamo sempre stimato poco il Parlamento e quindi dobbiamo all'intesa fra due personaggi di grande rilievo intellettuale e politico, come oggi ben sappiamo furono Andreatta e Ciampi. Allora, tornando al tema, la Banca d'Italia non aveva una sua politica, perché essendo impegnata a garantire il buon fine di ogni asta di BOT, doveva ogni volta che c'era un'emissione mandare una sua domanda residuale atta a garantire l'intero collocamento, e quindi che il tasso deciso di emissione dal tesoro fosse anche l'esito delle aste. Erano aste, non dirò truccate, ma certamente non normali, in cui il prezzo non era deciso dal mercato, ma era deciso il via 20 settembre, cioè dal ministro. E questo lo differenzia dalla situazione attuale? Enorme differenza. Oggi è il contrario. Esattamente. Oggi è il contrario, è la BCE che decide i tassi ai quali interviene. Oh, attenzione però che anche negli anni 80 la cosa non fu indolore. Perché cosa successe? Grazie all'autonomia così garantita alla Banca d'Italia, dopo il divorzio i tassi a breve si muovono e lì la politica economica invece del governo non cambia. E quindi in sostanza cosa abbiamo fatto? Abbiamo trasformato l'inflazione a due cifre degli anni 70, dopo lo shock petrolifero viaggiavamo con inflazione del 20%, finanziata con moneta di fatto. I BOT a offerta libera e garantita, l'abbiamo trasformata quell'inflazione a due cifre in una crescita a due cifre del debito pubblico. Certo. Perché se prima la Banca d'Italia non poteva reagire in presenza di eccesso di liquidità e quindi di inflazione creata dal tesoro, Negli anni successivi, nel corso degli anni Ottanta, l'inflazione si riduce molto, esplode il debito pubblico, raddoppia il debito pubblico invece che il livello dei prezzi. Certo. Cioè il governo non è in grado di governare le due cose che contano, l'inflazione e il debito. Il governo al massimo una. Negli anni 70 cerca di, con il divorzio, di recuperare la governabilità dell'inflazione, che si riduce molto. Peccato che esplode un debito pubblico che è ancora lì adesso, che è la grande eredità della crisi degli anni Ottanta, anni nei quali il divorzio rende responsabile la Banca d'Italia. Peccato che il governo e il Parlamento non se ne accorgano. Professore, la ringraziamo moltissimo di questi chiarimenti, appunto debito pubblico con cui abbiamo ancora a che fare ed è uno dei macigni che pesano di più sulla nostra economia. Grazie professor Vaciago, buona serata. Buonasera a tutti.